Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci, 9 minuti, una nuova settimana con voi, uno, nessuno, 100 Milan, con tutta la redazione che il signor Anacleto ci ha ricordato nella presigla. Ci siamo, cari ascoltatori, a tenervi compagnia fino alle 11 e siamo qua. Ma perché l'applauso? Vabbè, perché ci autoincitiamo, cerca, sono momenti difficili. Dentro. Eh? Sì, di testa, sponda, Leao! Sì. Ah. Doppietta per lui, è 3-0 Milan. Guardo il Milan alla TV. Vabbè, che è? Cos'era? L'Alpino mi ha mandato in regia quest'anno. Che di cos'è? Campionato? O Europa League? Campionato, campionato. E ha vinto 3-0. Allora, questa l'ho studiata tutta notte. Il calcio è nel pallone. Non ci ho dormito, ho preso sonno alle 4 di notte per pensare a questo titolo. Il calcio è nel pallone, tanto che io rinnovo questa proposta ai vertici del calcio. Potremmo sospendere il campionato qui, ora, e chi è in testa, così. Avete anche la sosta per pensarci, è una umile proposta, insomma. Chi è in testa, gli assegniamo il campionato con uno spareggino. Certo che se lo facciamo con l'Atalanta perdiamo. Vabbè, comunque niente. 9:11 minuti, ci siamo. Ricordo, cari ascoltatori, che oggi inizia la terza settimana decisiva per la riforma elettorale. Così, en passant, magari sarà quella decisiva dopo il referendum. Chissà, abbiamo tempo o hanno tempo fino a venerdì. Facciamo anche fino a sabato e domenica. Dai, 9:11 minuti, siamo qui. Vai. I will not be easy. And it will not be easy. No, it will not be easy. Siete pronti con le mascherine? Oggi volevo andare in onda con la mascherina. Vediamo un po' se metto la mascherina, se come si sente l'audio, se è attutito. Aspettate che devo mettere la mascherina d'ordinanza di Radio 24. Praticamente si sentirebbe così, con la mascherina. Tanto ormai dobbiamo abituarci, con la mascherina siamo tutti pronti a ritirarla fuori anche all'aperto. Vabbè, dai, almeno in studio la posso togliere, ma è questione di giorni, mercoledì, per mascherina per tutti, ordinanze restrittive, forse chiusura dei locali alle 22. Ne parleremo tra l'altro con Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, tra poco. E poi il calcio nel pallone. E beh, anche con lui parleremo, visto che è di Napoli, della vicenda Napoli-Juve. Il calcio nel pallone, ragazzi. Io devo dire, allora, faccio sentire il ministro della Salute Speranza, che secondo me ha detto una frase, se mi permette, vagamente qualunquista, che si può riassumere così: meno calcio, più scuola. Parliamo troppo di calcio, con tutto il rispetto. Io so che attorno al calcio ci sono interessi, ci sono tante persone che lavorano, che vanno rispettate, un pezzo anche di economia del paese. Però attenzione, le cose importanti in questo momento, col massimo del rispetto, sono altre. È il lavoro degli ospedali, è il lavoro dei nostri sanitari, e io penso e insisterò sempre su questo, è l'attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del paese. Allora insisto, un po' meno calcio, un po' più scuola se possibile. Ecco, era da Lucia Annunziata. Meno calcio, più scuola. Ma cosa vuol dire? È una frase qualunquista. come se il calcio e la scuola fossero degli ambienti contrastanti, come se il fatto che la scuola magari riscontra dei problemi sia dovuto alla troppa attenzione che si dà al calcio. Ma che cosa significa, cosa c'entra? Occupiamoci di far andare bene le scuole. E poi, se vi interessa, occupiamoci anche di calcio. Cioè, questa roba meno calcio più scuola. Come se occuparsi meno di calcio farebbe funzionare meglio le scuole. Ma chi l'ha detto? È come se io dicessi meno speranza, più certezze. È una frase, è uno slogan stupido, no? È uno slogan stupido. Meno speranza, più certezze. E uno mi dice, ma che vuol dire? Ho fatto una battuta su speranza. Beh, ma è una frase senza senso, qualunquista, populista. Ecco, meno calcio, più scuola, mi permetta, caro ministro, è un po' la stessa cosa. Detto questo, noi parliamo di scuola, alle 9.30 c'è Maria Piera Ceci, ma parliamo anche di calcio. Non è che non si possa parlare di entrambe. E parliamo anche di questa notizia, a cui io tengo molto. E sapete che tengo la conta. Da 34 giorni ci sono 18 pescatori di Mazara del Vallo che sono trattenuti, anzi adesso bisogna dire detenuti in Libia, senza un'accusa precisa, se non quella forse di avere violato le acque internazionali e le acque libiche pescando. Da 16 giorni i familiari non li sentono al telefono. Non so se da 16 giorni, ma lo voglio chiedere a Cristina Amabilino, che ringrazio, è la moglie del marinaio Salvo Bernardo, uno dei 18. Buongiorno signora Amabilino, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Io ogni giorno terrò il conto e, come dico sempre, spero di finire presto, perché vorrà dire che saranno tornati in Italia. Speriamo. Lei li sente? Sente suo marito? Io è che non sento mio marito dal giorno che è andato via da casa per lavorare. Cioè non può chiamarlo, non c'è un telefono, no, non esiste. No, no. Ha capito dove sono, se in carcere, se in una zona del carcere, nelle celle? Ho capito che si trovano in Libia, l'ho capito perfettamente dalla notizia che ci è arrivata il 1° settembre. E ho capito che sono lì, in qualsiasi posto e si siano, li rivogliamo a casa. Questo li rivogliamo subito a casa. Questo è il nostro appello. Io so che, e l'ho detto varie volte, sono certo che il Ministero degli Affari Esteri, che la Farnesina si stiano attivando e siano attivi già dal primo giorno. Certe cose forse non vanno dette sui giornali, ma vanno fatte sotto traccia. Prego. Nessuno mette in dubbio che il governo non sta lavorando, ma nessuno lo mette in dubbio. Sta lavorando, ma per noi 35 giorni sono 35 giorni, per i nostri uomini sono secoli. Ok, stanno lavorando, che questo tempo comincia a ridursi, perché non è possibile. E non è che noi stiamo male, perché noi a confronto ai nostri uomini, noi non siamo niente. Noi rivogliamo i nostri uomini a casa, che il governo poi concluda o non concluda la sua trattativa, che non mi interessa quale sia. Rivogliamo gli uomini. Questo rivogliamo, sì, gli uomini a casa. Dopo 35 giorni noi non ci accontentiamo più dei bassi... come posso dire, di questa trattativa lunga. No, ma è chiaro, è chiaro. Io so che avete incontrato anche il vescovo, sì, il vescovo Mogavero. Sì. Per carità, sì, vi sarà data tanta solidarietà da parte, sì, di tutti. Voi però cercate di capire un po' di chiarezza, anche le accuse. A voi è arrivata qualche voce su di che cosa sono accusati i vostri mariti, i vostri uomini? Noi non sappiamo nulla, né dove siano, né come stanno, né di che cosa siano accusati. Non sappiamo nulla, ma siamo all'oscuro di tutto. Hanno almeno un avvocato? Sapete se hanno un avvocato che li può difendere? Io questo non lo so, purtroppo non sappiamo nulla. Le dico che noi siamo all'oscuro di tutto. Io ricordo che c'è stato un contatto telefonico diversi giorni fa, forse è stato dato il permesso a uno di contattare la famiglia. So che anche Mirta Merlino aveva messo in onda la telefonata. Dopo, da allora basta, non ci sono più di 2 settimane che non sapete nulla. sappiamo nulla. Quella telefonata non è stata una telefonata che ogni uomo che era lì ha chiamato la propria famiglia. Quella telefonata è stato un grido d'aiuto da parte dei nostri uomini. Non è stata una semplice telefonata, è stata una telefonata aiutateci, non ce la facciamo più, ci trattano bene, ma aiutateci, aiutateci. No, no, ma è la prima volta, signora, che capitava a suo marito una che capita una vicenda del genere, perché sappiamo che non è la prima volta che per questioni di acque, di territorialità delle acque vengono trattenuti. La domanda di mio marito è la prima volta che mi succede questo discorso, cioè è la prima volta per noi, per la mia famiglia è la prima volta. E speriamo di sì. Signora Cristina, facciamo così, ci sentiamo presto, noi, io ogni giorno tengo il conto, ripeto, e voglio finirlo al più presto, ma mi sembra doveroso per tenere alta l'attenzione, ripeto, da 34 giorni 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti in Libia a Bengasi, senza un'accusa precisa, senza poter comunicare con le famiglie. Ora, hanno violato le acque internazionali? Hanno pescato le acque della Libia? E che diamine? Va bene, risolviamo la questione, formulate un'accusa precisa. Sono cose che capitano, mi verrebbe da dire, magari sono cose che non devono capitare, ma ecco, tenerli lì da 34 giorni senza poter parlare alle loro famiglie, senza un'accusa, senza un processo, senza niente di niente, ma mi sembra veramente esagerato. 9:20 minuti, allora io ho titolato così, ho iniziato dicendo il calcio è nel pallone, ma non è di questo, o meglio, non solo per questo abbiamo chiamato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che saluto, buongiorno sindaco. Eccoci. Buongiorno. Ci sono tante cose di cui un sindaco si deve occupare, adesso anche il calcio è inevitabile, lei l'ha capita almeno la questione, se vuol parlare da sindaco, da tifoso, non lo so, ha capito da che parte sta la ragione in questo paese così complicato anche per una partita di calcio? Ma siamo partiti, a proposito di partita, con col piede sbagliato quando si è previsto, a proposito del virus, una regola diversa per i calciatori rispetto a tutti gli altri cittadini, e questo è stato il primo fatto grave. Il protocollo per lei è sbagliato. Nel senso che mentre per ogni cittadino, se hai un contatto diretto con un positivo, ti metti in quarantena e attendi il tampone, per i calciatori non è così, e quindi siamo arrivati al caso Genoa e agli altri casi. È chiaro che poi la situazione precipita, in più mettiamoci che Juve-Napoli è sempre una partita particolare, sicuramente sgradevole, inaccettabile che si vincano a tavolino queste partite, così come credo che insomma non si doveva arrivare a questo. Non si riesce ad avere un governo ordinario e accettabile della pandemia nemmeno sul calcio. Il problema è proprio questo, secondo me, mancano, a proposito di protocolli, delle linee guida precise, dove uno non può sbagliare di mezzo secondo, cioè non può, come dire, basta seguire 1, 2, 3, 4, un decalogo, e invece ognuno fa un po' di testa sua. Questo è proprio così, perché se ci fosse un decalogo rigoroso, poi si potrebbe anche arrivare, da una parte ci sarebbe una maggiore attenzione e prevenzione di tutto, e poi si potrebbe anche arrivare, che dato il momento in cui viviamo, che qualche partita si è costretti a giocare con molti calciatori della primavera, ma quello ci può stare, come ci sta anche durante i tempi non di pandemia, dove alcuni giocatori o sono infortunati o hanno l'influenza o hanno altre cose, possono prendere, insomma, quello che è proprio è sconcertante, che si naviga a vista, magari interviene l'ASL che in altri casi li chiami per una settimana e non arrivano, cioè insomma è un po' tutto veramente curioso, mettiamolo così. Vi faccio questa domanda diretta. Lei è preoccupato per la situazione a Napoli e in Campania? Ho visto che il presidente De Luca ha fatto vedere, per esempio, il video di una festa, e si parla sui giornali anche di ragazzi che facciano feste nel centro storico senza il rispetto della mascherina, e i casi aumentano. Lei è preoccupato per Napoli e la Campania? Ma io sono preoccupato come ero preoccupato 6-7 mesi fa. Mi preoccupa il fatto che non vedo che si sono fatti passi avanti sul tema sanitario, non nel senso di vaccino e ricerca della cura, proprio sull'organizzazione di un numero più cospicuo di posti letto, di reti di protezione sanitaria. La Campania è ancora la regione che fa il minor numero di tamponi. Io trovo assolutamente grave, veramente non è una polemica politica, è proprio anche qui di responsabilità istituzionale, questa continua aggressività nei confronti dei ragazzi. Cioè, essere così violento nei confronti di un'immagine di ragazzi fuori una scuola, come è accaduto l'altra volta, è nascondere delle responsabilità che ormai il Presidente non può più nascondere. Io sono preoccupato di questo, cioè del fatto che abbiamo cominciato a marzo, che eravamo la regione, tra le grandi regioni, col minor numero di posti letto per terapia intensiva. E la domanda che noi stiamo facendo, e sulla quale non abbiamo risposte, perché non ci dite con precisione quanti posti letto abbiamo? Perché non ci date i dati sulla diffusione epidemiologica? Perché non ci dite che facciamo un numero così basso di tamponi? Allora, su questo io sono preoccupato, perché vedo o approssimazione o malafede nel nascondere la verità. Quindi lei chiede alla Regione, siate meno critici sui comportamenti. Chiarezza e verità. Però i comportamenti... E non prendersela sempre, chiedo scusa, non prendersela sempre col cittadino o col commerciante, poi ognuno singolarmente ci stanno le responsabilità, figurate, c'è quello che ha la mascherina, quello che non l'ha, ma se lei gira per Napoli vede che 70-80%, forse anche di più, hanno la mascherina. Ecco, a proposito di questo, adesso pare che mercoledì il governo voglia mettere la mascherina per tutti all'aperto, si parla di nuove restrizioni. So che il settore, soprattutto del commercio, degli esercizi, sono molto preoccupati, perché ovviamente si sono attrezzati, hanno anche affrontato delle spese non indifferenti per tenere aperto. Adesso c'è il rischio di chiudere, si vedrà se alle 22, alle 23. Lei che pensa, dove sta la ragione da questo punto di vista? Guardi, dalla ricerca che abbiamo fatto noi su dati approssimativi, perché la Regione Campania non ce li comunica in maniera adeguata, la diffusione del virus degli ultimi tempi, insomma dopo l'apertura estiva, non è legata al fatto che alle 11 di sera si vada a mangiare una pizza o all'aperto si vada a mangiare, poi Napoli, lei sa, è una città dove fino a novembre puoi stare all'aperto, il che è un fatto positivo, e nella concentrazione dei luoghi chiusi, cioè nella diffusione di chi è andato fuori, ha trasmesso ai genitori e ai nonni, luoghi chiusi, ristretti, e lì. Quindi io personalmente, per esempio, la mascherina obbligatoria all'aperto va bene nei luoghi in cui stai con più persone, ma se io esco dal mio comune al mezzanotte, mi vado a fare due passi vicino agli scogli di Napoli, ma mi dice lei che senso ha avere la mascherina? Oppure chiudere alle 22, quando quelle poche persone che usciranno, come dire, usciranno allora tutti ad andarsi a mangiare tra le 20 e le 21, che senso ha? Se tu vuoi ridurre gli assembramenti, metti delle limitazioni diverse. Questo mi sconcerta, cioè che dopo 7 mesi continuiamo più o meno con alcune ricette che sono state obsolete, e invece non c'è ancora quel rafforzamento della rete sanitaria di territorio che individua immediatamente il focolaio, interviene e lo spegne. Ma scusi, ma lei non sa quanti posti di terapia intensiva ci sono per esempio a Napoli? Forse nella regione? Guardi, no, posti di terapia intensiva, da quello che abbiamo, da quello che sappiamo noi, e quindi siamo molto lontano, nonostante i soldi che sono arrivati, i poteri speciali, i poteri straordinari, i poteri commissariali, il collasso della democrazia, siamo partiti da 334 il 21 di febbraio e siamo arrivati in tutta la Campania a circa 500, dovrebbero essere 1500. Allora quando lei mi dice lei è preoccupato, certo sono preoccupato per questo, perché non è che sta solo il Covid, ci sono anche le altre malattie per cui uno va in terapia intensiva, quindi si faccia un po' il calcolo, siamo 6 milioni di abitanti con 500 posti di terapia intensiva in tutta la Campania. Sì, lei dice in questi mesi si poteva utilizzare il tempo per direi di sì, invece di attaccare sempre il cittadino che è il colpevole, il commerciante che deve chiudere. In 24 ore sono state fatte ordinanze che hanno fatto saltare matrimoni, hanno fatto saltare negozi, hanno fatto saltare attività. Ecco, questo secondo me dopo 7 mesi sconcerta un po'. Lo potevo capire a febbraio, c'è una cosa improvvisa, nessuno era preparato, si va un po' alla carlona. Adesso no. Senta, sindaco, l'ultima domanda gliela voglio fare su questo caso di cronaca. Purtroppo c'è stata ieri una tentata rapina e l'uccisione da parte della polizia di un ragazzo di 17 anni che tra l'altro aveva una pistola giocattolo, eccetera. Le faccio la domanda partendo da qui. Lei è stato magistrato, forse conosce il procuratore di Reggio Calabria dei minori Roberto Di Bella, che noi abbiamo avuto varie volte, che propone e fa un protocollo per togliere i ragazzi dalle famiglie di 'ndrangheta e farli crescere in ambiente più sani. Lo chiede anche una mamma di Napoli che noi abbiamo avuto ospite, la conoscerà, Maria Luisa Iavarone, il cui figlio è stato accoltellato senza motivo da una baby gang. Lei sarebbe d'accordo a dire in alcune situazioni togliamo questi ragazzi dalle famiglie di camorra nel caso e facciamoli crescere in ambienti più sani? Togliamo la patria potestà ai genitori. Guardi, come regola di carattere generale è l'ammissione di una sconfitta di una società e di uno Stato. In alcuni casi particolari lo si è fatto anche a Napoli. Per esempio, alcuni anni fa, non molti, si scoprì con un'indagine che alcuni bambini in un quartiere di Napoli, bambini, cioè parliamo di 7, 8, 9, 10 anni, sì, venivano utilizzati per confezionare sostanze stupefacenti, fatto di una gravità inaudita da parte dei genitori. In quel caso ovviamente si è intervenuto con provvedimenti del tipo di quello che ha sottolineato lei, e credo che in quel caso, come dire, avevano una razza. Io sono invece più per fare un'attività invece di recupero forte sui territori, e Napoli ha dimostrato che in questi anni ha sottratto molta manovalanza familiare in contesti mafiosi in cui prima non si ipotizzava nemmeno astrattamente che si potesse raggiungere questo obiettivo. Sì, diciamo che quella scelta è volontaria da parte di molte famiglie. Quello che mi ha colpito è che molti bussano alla porta della procura di Reggio Calabria e volontariamente chiedono, soprattutto madri che chiedono di togliere i propri figli. Questa è una bella cosa, perché vuol dire che è un segno di ribellione rispetto a un contesto mafioso, e tra l'altro quello dell''ndrangheta è anche diverso da quello della camorra. Appunto, non si può fare un ragionamento, una regola, come dire, giuridica, no, chiaro. Una legge, però in alcuni casi può essere assolutamente efficace e in altri secondo me controproducente. Va bene, insomma, in tutto questo casino, per chiudere come abbiamo iniziato, lei ha capito come finirà sto Juve-Napoli 3-0? Ma ricorso. Non può finire a tavolino. Non può finire a tavolino. Non può finire a tavolino. Comunque finisce triste. Comunque è una brutta pagina, sicuramente sì. Grazie sindaco Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Il calcio è nel pallone, eh? Ti piace Maria Piera Ceci? Ci ho passato la notte, ho detto per studiare questo titolo, dimmi. Mi hai anche scritto ieri. Sì. Calcio, scuola, perché si mettono insieme? Ho fatto sentire speranza poco fa. Ma io insomma sono un po' d'accordo con lui. Ma lo so lui. Che tu sei speranza. Io sono d'accordo, io no, scusa, perché... si è parlato tanto di scuola, poi a un certo punto l'argomento è finito. Ma noi ne parliamo sempre di La scuola è cominciata, calcio. Ma è cominciata dove? Metà delle classi sono a casa, sì, vabbè, ma poi sai, ne parliamo. Sai la cosa, manda che contesto, la sigla che poi ne parliamo. No, manda, aspetta, sigla. Che c'è la pubblicità. Tanto sai cosa contesto, che sembra quasi messa così che i problemi della scuola derivino dal fatto che si parla troppo di calcio. Interpretato male, vabbè, secondo meno, me non meno, c'entra. Meno calcio più scuola, io infatti ho detto la battuta, meno calcio più scuola, perché se bisogna io così ho interpretato le parole di Speranza, se bisogna ridurre le occasioni di incontro, di assembramenti, i famosi assembramenti, meglio sacrificare quelli del calcio che quelli della scuola. Ma non c'è dubbio, ma non sono contrastanti i due mondi, cioè si può fare andare bene le scuole. È come ristoratori contro, cioè, e infatti se bisogna chiudere delle cose, il problema dell'Italia c'è comunque una lista contro, da fare, è tutto contro gli altri. Comunque io l'ho detta così, è come se io dicessi meno speranza più certezze. È una cazzata, insomma, ne dici tante, lo so, è uno slogan qualunquista tanto quanto sì, meno scuola più calcio. Non è tanto qualunquista, cioè, perché non credo che Speranza con questo si sia, come dire, la frase, qualificato. La frase. Vabbè, dai, meno speranza, più certezze, come la pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Scuola! Così sì che è rock la sigla. Così sì che è rock. Sai che noi abbiamo una DJ contentissima di questa sigla, questa base, veramente bella. Non osi neanche chiamarla sigla. Ah no, la musica. Quella prima. Sai, Maria Piera Ceci, che noi abbiamo una DJ, DJ Lookett, te la voglio presentare. DJ Lookett, la conosco. Eccola là, è bellissima. Lei che fa le scelte musicali. Senti che rock. Bravissima. Vabbè, cara Maria Piera Ceci, guarda, ti do questa pagina di libro, è uscito un volume, Come non perdere la calma, tieni, leggi. Guarda, volentieri, come genitore, come giornalista, come tutto, come tua co-conduttrice. Oggi è una giornata mondiale, tu adori le giornate mondiali. No, mi fanno schifo le giornate mondiali. No, perché sembra quasi che bisogna parlare di un argomento solo quel giorno, invece se c'è la giornata mondiale di qualcosa vuol dire che l'argomento

i presidi sono un po' in difficoltà in questo periodo, perché in realtà lo si accennava prima, non tutte le ASL si regolano allo stesso modo. In effetti a me arrivano tantissime segnalazioni di genitori soprattutto, e dicono: è arrivata la segnalazione di uno studente, una persona contagiata, ma ancora non sappiamo se dobbiamo mandare i nostri figli a scuola, non è arrivata nessuna comunicazione, perché spesso i presidi rimangono col cerino in mano. Chiuse le ASL a un certo punto nel pomeriggio, non sanno chi avvisare. La prima puntata, quando avevamo Giannelli, che gli ho fatto la domanda: scusi, ma lei alle 9 e 8 minuti sa di un caso, cosa fa alle 9 e 9 minuti? E lui tre volte mette: chiamo l'ASL, chiamo l'ASL. Ma è ovvio, cioè adesso tu mi stai dicendo una cosa che era ovvia: in un sistema che è perfetto non c'è problema, e invece poi e tu hai detto le 9 c'è gente 08. Che dice non so cosa tu fare, immaginati alle 21:08 esatto, di sera, o il sabato o la domenica, dai, voglio dire, perché un conto è l'utopia e poi viviamo in un paese dove sappiamo che la quotidianità ti fa scontrare con altro, no? Sì, purtroppo sì, quindi chiedono al Ministero dell'Istruzione un protocollo un po' più preciso, al di là delle intenzioni. Si chiama l'ASL, sì, ho capito, ma se chiamo l'ASL dicono i presidi e non mi risponde nessuno. Domenica alle 13 stanno mangiando la parmigiana, sì, giusto. Va bene, Maria Piera, ci stanno sentiamo. Lavorando tanto, certo. Ci mancherebbe. Ciao Alessandro. Ci vediamo lunedì prossimo. Ale! Traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tough. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. Allora signori, ma Leonardo Manera, che c'è il sole, dov'è? No, il sole. Questo. In bici. Anche in bici quest'altro. Questo. No, non è un campanello da bici. Questo anche questo. Cosa stai comprando? No, sto facendo il conto degli spettacoli che saltano col nuovo decreto che entrerà in vigore. Aia. Effettivamente. Sto vedendo che anche questo salta. Salta anche questo. Però ne hai tanto, cioè a 10.000 euro a spettacolo ne ho già contati 10, sono già 100.000 euro saltati. Sì. E infine anche questo. Va bene, siamo a posto. Siamo a posto. Ci vediamo a giugno 2021. Forse, però è bello sentirti con questo spirito, nonostante ciò. Ieri eri un po' più... C'era l'ultimo, sì. No, quello lì secondo me lo potevi salvare. Guarda che secondo me quello lì sotto Natale... No. Quando sei vestito da Babbo tutti. Natale. Aspetta che ne avevo uno anche a marzo in opzione. Saltato anche questo. Saltato. Allora, buongiorno. Buongiorno. A tutti. Quindi oggi. Quanti soldi conti di avere perso? Non lo diciamo. So. Non ho neanche fatto il conto perché mi demoralizzerei troppo. Quindi preferisco non fare i conti. Vabbè. Preferisco evitare. Non bisogna mettere il coltello nella piaga. Bisogna semplicemente suonare il campanello. Far saltare. Allora dai che non c'è tempo. Hai ben 5 minuti, prego. Leonardo, ben 5 minuti. Vai. In fondo noi italiani non ci abbiamo messo molto. Ci sono stati presidenti che in alcuni paesi sono stati un po' più scettici, Boris Johnson, Bolsonaro, lo stesso Trump. Inizialmente non hanno dato molta importanza al virus. Poi Boris Johnson l'ha contratto anche in forma severa. Bolsonaro invece l'ha superato più in scioltezza. Ora si vedrà che succede a Trump e a Melania, alla quale mi riservo sempre di scrivere per proporre di venire a vivere con me a Milano in Piazza Udine. Mi auguro di avere rapidamente una risposta, eventualmente anche di diniego o anche solo per una pizza alla Casa Bianca. Ma dicevo, da noi non è stato così. I nostri governanti, tranne rari e iniziali casi, hanno preso subito piuttosto seriamente la vicenda. E così, tranne casi altrettanto rari, abbiamo fatto anche noi cittadini. Ci siamo adeguati rapidamente alle varie norme restrittive che di volta in volta venivano emanate attraverso i DPCM e tutto sommato non abbiamo protestato. Siamo stati mansueti, forse anche perché un po' spaventati dai media mainstream che quotidianamente ci mostravano immagini inquietanti e usavano talvolta un linguaggio paramilitare. abbiamo obbedito con un po' di stupore generale, perché eravamo abituati a un popolo di disubbedienti, dove si tende a fare i furbetti, a non pagare le tasse, a costruire la verandina abusiva che poi diventa una villetta bifamiliare, qualche volta anche a sfrecciare sulla corsia d'emergenza quando in autostrada c'è troppa coda. Eravamo così. Poi è arrivato il virus, il coronavirus. Quando era ancora in Cina non ci siamo preoccupati perché la Cina ci sembrava troppo lontana. Poi, quando è arrivato a Codogno, la prima domanda che ci siamo fatti non è stata quanto è pericoloso il virus, ma dov'è Codogno? Una volta appurato che Codogno si trova qui in Italia, vicino a tutti noi, abbiamo cominciato a preoccuparci per quel virus, che non ha un esito certo, che in molti casi è asintomatico, che in alcuni casi dà sintomi simili a quelli dell'influenza e in altri casi obbliga al ricovero. Insomma, è un virus incoerente, umorale. Non si sa mai come si comporta e finisce per sconcertarti, per fiaccarti, come una fidanzata o un fidanzato, lo metto anche al maschile perché altrimenti scatta subito l'accusa di sessismo che è sempre dietro l'angolo. Ecco, come una fidanzata che un giorno dice che ti ama e il giorno dopo che non ti ama più. Non dà certezze, come il virus. E allora abbiamo rinunciato a molta parte della vita che facevamo prima, per mettere le mascherine, per non sfiorarci più e poi stare a casa chiusi per 2 mesi. Stare a casa non è bello, anche se qualcuno voleva farcelo credere, anzi, secondo me fa proprio schifo. Insomma, la paura di perdere la salute, forse sì, forse no, forse non so, si può morire ma si può anche star bene, ma comunque per un problema reale, reale, reale, lo ribadisco altrimenti mi accusano di essere negazionista, ci ha ammazzati psicologicamente e ci ha fatto diventare obbedienti come mai successo prima. Ma allora questo sistema andrebbe utilizzato, a mio parere, per farci diventare un paese migliore. Non paghi le tasse? Attenzione che ti viene il crostavirus direttamente dalle isole Cayman. Costruisci verandine senza permesso? Occhio che per quelli come te è in agguato il bubbonavirus, in agguato nei terreni abusivi. Sei un furbetto del cartellino, timbri e poi torni a letto. Per quelli come te c'è la carogno virus che colpisce quelli che se ne stanno troppo sul materasso. Insomma, se davvero ogni problema può rappresentare un'opportunità, il coronavirus può darci finalmente l'esempio per trasformare ogni cittadino italiano in un cittadino modello, da invidiare perfino in Svizzera. Questo negazionista qui. Non è... Ciao! L'ho detto tre volte. È perché detto. È la regola un del tre. Reale, solo perché reale. È la regola dello spettacolo. Dire tre volte una cosa. Solo per questo. Ho detto per tre volte che è un problema reale. Vergogna. Negazionista. Vergogna. Negazionista. Sai che ho condiviso molto quello che ha detto il sindaco De Magistris prima. Mm. Sì, sì. Però, sì, sono incredibilmente in sintonia col perché sindaco. Incredibilmente incredibile? No, perché, perché le altre volte non mi era capitato, invece oggi devo dire che ho condiviso. Senti, totalmente. Leo, avevamo un'opzione per uno spettacolo, credo a fine novembre, secondo me a fine novembre. Lo spettacolo a fine novembre, potresti, ma per me... favore... tolto anche quello, sì. No, ma l'avevo già tolto prima, avevo già fatto il conto anche di quello. No, scusami, non avevi specificato, allora mi è venuto in mente adesso che avevamo, e allora vabbè, giornale radio, dai. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 1 nessuno 100 Milan. Sono le 10:08 minuti e siamo pronti per la seconda ora di 1 nessuno 100 Milan con questo entusiasmo, caro Leonardo Manera. Vero? Beh, lascia andare questa canzone, lasciala andare. Dai, un vai. Po'. Vai DJ Lucket! I've got to have my way now, baby. forse dobbiamo rifugiarci veramente nella musica, nella basta musica. Parlare di virus, di alto, basta, basta, tanto abbiamo capito che arrivano le critiche fuori per un 3-4 anni. Leonardo, dai, rispondi a Cristiano che scrive da Bergamo, dice: ecco, non capite niente, dovevate essere a Bergamo, come se fosse... È un po' insopportabile, ma poi risponde meglio Leonardo Manera. È insopportabile questa idea che se uno dice delle, fa delle considerazioni, non rispetti le persone che sono morte, non rispetti la sofferenza. Ma insopportabile, insopportabile. Prego, ma poi io Leonardo. Dico che è una mia opinione, ma il rispetto per le persone che non ci sono più è maggiore. E c'è veramente, se si capisce che la situazione poi nel tempo cambia anche, non è che anche a livello medico mi pare siamo proprio uguali a come eravamo a febbraio-marzo, quindi secondo me c'è tanto più rispetto quanto più si riesce a capire che la situazione col tempo si evolve, esatto, e cambia. Il rispetto forse parte dalla verità dei dati oggettivi. Forse non aver rispetto e dire è sempre tutto uguale, resterà sempre come febbraio-marzo. Io credo che invece il rispetto per i morti ci sia proprio nel riconoscere i cambiamenti della situazione. Io la vedo così. Poi io sono d'accordo con te e sbagliamo i due. Questa è bella musica. Che tempi, bravissima DJ Lucchetti. Chiamatela DJ Lucchetti con la K perché la trovate così. Lei ci tiene. DJ Lucchetti. Sai, Giuseppe, che anch'io ho un nome da DJ? Me l'ha dato mio figlio. Grande. Leo Summer. Leo Non è male Leo Summer. Leo Summer e DJ Lucchetti potrebbe essere un bel duo. Potreste fare spettacoli. Ah no. Ah no. No, quelli no. No. No. Avevate un'opzione, se non sbaglio, Leo Summer e DJ Lucchetti per febbraio, sì. No? Saltata. Va bene. Oh, invece, ma tutto questo casino del campionato. Aspetta un attimo, tra l'altro. Aspetta, chiamiamo Andinolfi, che formalmente sono ancora meno 5 gli Juventini. L'altra volta gli avevamo promesso: ti richiamiamo se recuperiamo dei punti. Non so, certo, hanno fatto una tripletta di tavolino ieri contro il Napoli. Però, nuovo acquisto della Juve. Però, formalmente, per il momento, sono a meno 5, se non sbaglio. Quindi accogliamolo così, tutti a meno 5, se risponde, vediamo, Mariona, di meno 5. No, non è meno 5. Eh sì, è meno 5, guarda, leggi la Gazzetta, è meno 5, state a meno 5. Ma ha incornato tavolino sotto l'incrocio, non te ne E infatti ho detto tripletta di tavolino, comprato all'ultimo prima di chiesa, però meno 5, formalmente state lì, a meno 5. C'è un'incornata che diciamo... No, devo dire la verità, ieri mentre guardavo la partita del Milan, perché essendo malato di fantacalcio e ovviamente non avendo acquistato neanche un milanista, perché mi vergognerei, ma ho comprato Galabinov, quindi seguivo l'attaccante dello Spezia. Si è fatto male dopo 5 minuti. Peccato, no, dispiace, pronta guarigione. Però poi hanno detto che avete fatto 7 gol e 0 subiti. 0 subiti, e voi meno 5. Poi siamo in Europa League, hai visto, siamo passati in scioltezza con il Rio Ave. Facili, capito, per cui con quello squadrone portoghese, insomma. Per cui. Capito, Manera, ci piglia in giro, loro vincono a tavolino. Solo pochi anni fa pareggiavamo col Crotone, quindi esatto. Bisogna ammettere che c'è stato un passo avanti, caro Adinolfi. Manera, adesso no, la condizione che voi sapete è di massimo rispetto per il vostro dolore e la fatica è quella che è, insomma. Ma il mio ci state credendo, perché adesso non vorrei trovarvi veramente in questa condizione che mi fa sghignazzare, mica ci state veramente credendo. Una grande botta di comicità di Manera. Va bene, bravo Manera, bravo, no, comico Manera, meno 5. Digli così, ma due cose devi dire, o Manchester, devi dire sempre Manchester. Guarda, o meno 5. Manchester o meno 5. Dirò di più, noi ce la giochiamo con l'Atalanta quest'anno. Esatto. La vedo così, siamo noi e l'Atalanta. No, fammi fare una domanda seria, che quindi non parliamo di Juve. A Mario Adinolfi, no, intanto come finirà sta storia? Dai, di qualcosa contro i napoletani, così ti amano tanto. Ma, insomma, devo dire la verità, trovare un dirigente tifoso della ASL che vieta la trasferta è abbastanza facile, diciamo così. Se questo è il meccanismo, ognuno che si ritrova con un infortunato manderà i malati in giro per discoteche per cercare che il proprio giocatore becca il Covid per evitare la trasferta, insomma, quindi... Vabbè. Mi sembra che il presupposto sia ovviamente punire il comportamento sportivo di chi non riconosce un regolamento che è stato firmato da tutte le squadre. Ma finirà tutto in vacca, tanto tra, poi dopo la giustizia ordinaria darà ragione al Napoli e tra un mese no, ti voglio fare una domanda seria, visto che tu hai scritto il libro Il grido dei penultimi, raccontando... E siamo quasi penultimi noi Juventini. Sì, dedicato alla Juve. Dedicato alla Juve. Il grido è il mio proprio, esattamente. No, in realtà hai scritto questo libro dedicato a tutti gli italiani che non ce la fanno, quelle classi medie in difficoltà per il virus. Esatto. Adesso arriva mercoledì un nuovo provvedimento. La Manera già sta tenendo conto. Manera, avevi ancora uno spettacolo, secondo me, a giugno che ti era dato a in giugno, opzione. Aspetta che controllo un attimo. Aspetta. Saltato anche quello. Ecco. Giugno ancora... sta tenendo il conto degli spettacoli saltati. Questa è una cosa molto seria in realtà, Marione. Che succede ai commercianti, gli esercenti, a tutti quelli? Guarda, è la vita che noi facciamo, ma purtroppo, questo lo voglio dire veramente da Radio 24, quello che ha ucciso completamente è questa idea della proroga indeterminata dello smart working. Perché nelle grandi città, in particolare Roma, che vive di realtà impiegatizia, mandare tutti in smart working vuol dire veramente uccidere quel tessuto di indotto che era il tassì che prendevi per fare un lavoro fuori di casa. Anche a Milano, i bar in centro sono tutti chiusi, un disastro. I ristoranti in cui facevi il lunch di lavoro. Insomma, quello che è la vita abituale di molti di noi nelle grandi città viene ridotta a una vita solitaria, casalinga, dove lavori dal computer. Io stesso vivo, non sono famoso come Manera, però io adesso il 9 devo presentare il libro a Seriate, provincia di Bergamo. Secondo me, Manera, è confermato? Confermata la presentazione? Saltata anche la presentazione. Il 13 all'Università di Urbino ce la faccio? Vediamo. Veniva l'arcivescovo a Urbino. No, al di là di questo, cioè, sarà una situazione seria. Innegabile. Il fatto vero è che, al di là del dispiacere, mi immagino per Leonardo mio di non poter incontrare, ma io farò di tutto affinché possa comunque accadere nelle regole, pur limitate che ci sono, le occasioni di incontro per presentare il grido dei penultimi. Ma il dato fondamentale che questo libro racconta un'Italia che dalla, come dire, difficoltà economica, dalla precarietà economica passa a una dimensione di precarietà esistenziale. È questo quello che temo molto. Vedo una sofferenza che è veramente al di là del materiale. È incredibile, siamo stati chiusi dentro casa 3 mesi, ti do un dato che sai che è un'Italia che mi sono più a cuore, e non ci sono tracce di innalzamento della natalità. Cioè, sono abbattuti in maniera incredibile il numero di matrimoni, e per la fine 2020, che dovrebbe essere appunto il periodo in cui bisognerebbe immaginare una nascita di figli tipo quelli della fine della Seconda Guerra Mondiale, dove ne eravamo messi peggio, ma il fatto che ci fosse quella tragedia aveva acceso una speranza che era quella almeno nei figli nel futuro, infatti nacquero 1.660.000 bambini. Invece la gente non solo ha paura e non ha soldi. Adesso mette in difficoltà, ma ripeto, non credo che neanche sia il tema non faccio un figlio perché non ho soldi. Sto molto attento a fare un figlio perché dentro di me ho una dimensione di angoscia che non mi mette nella dimensione tranquilla che è quella di fare un figlio. È un'angoscia che va al di là della dimensione materiale, lo ripeto. E poi al solito c'è l'individualismo italiano. Arriva il messaggio, dice: quindi secondo Arinolfi dovrei io, ascoltatore, rischiare la vita per evitare che il bar chiuda. Ma cioè, la vediamo così, solo così, in Italia. Evidentemente non ha un bar, ovviamente, o non ha un genitore barista. Ma spererei che, come sempre succede, io lo chiedo, non sono per nulla un negazionista in nessuna maniera. Anzi, sono trattato male in alcuni mondi perché sono uno che mi chiede la massima prudenza, ma di essere vicini in particolare a quei ceti produttivi che sono lì davvero a cercare di produrre ricchezza nonostante tutto, e che purtroppo a livello di aiuto ne hanno ricevuto molto poco. Sì. L'aiuto è andato al lavoro salariato, al dipendente, giustamente salvaguardando i posti di lavoro con le casse integrazioni pagate, ma il piccolo produttore di ricchezza dell'impresa familiare in questo momento è stata abbandonata. Totale difficoltà, ma io non ha avuto neanche un gesto. Ma io non quelli lo so. Sono i penultimi che ho raccontato, sì, nel grido dei penultimi. Ma sì, ma voglio dire, ma è solo una questione di empatia. Io tutte le volte che entro adesso dal mio amico allo spazio Nolo 43, così faccio pubblicità in Viale Monza 43, da Jessica, la mia amica, e da Marco, e Marco mi guarda da dietro al bancone e dire: ma che succede dopo domani? Ma io mi sento, cioè è ovvio che mi piange il cuore per lui e vedo dentro di lui negli occhi a dire: ma io arriverò a fine mese. Ma guarda, posso dirti, questo tuo aver detto Jessica e Marco, diciamo anche contro le modalità con cui sono esseri umani, è già una modalità con cui tu dai quel tipo di ascolto, perché lo scrivo nel libro, attenti, perché quel grido che io racconto, il grido dei penultimi, è un grido muto, perché queste realtà sono estremamente dignitose, non si mettono a fare la lagna, non le vedi per strada fare il blocco del traffico, per cui è un grido muto in cui tu, veramente tu Alessandro, tu Leonardo, io Mario, prestare l'ascolto e ascoltare quei 10 minuti, magari quando sei lì a prendere il caffè, che vai di fretta, ma magari ti fai dire come va, anche solo per loro, farsi dire che in quel momento c'è la difficoltà e poterla compartecipare, è un modo per alleviare un pizzichino della loro fatica. Penso sì. Cioè, io credo che questo sia un bel modo e mi fa piacere che tu abbia citato i tuoi baristi in trasmissione. Ma no, ma è chiaro, è chiaro. Non si fa, che è bene fare. Mario, grazie. Guarda, qua dicono: sarai contento che arriva Chiesa. Beh, questa è la battuta del giorno. Nome nuovo. Adinolfi arriva a Chiesa. Cioè, a Chiesa della Juve. Cioè, Chiesa della Juve. Che giornata, no? Arriva Chiesa, Leonardo, arriva a Chiesa alla Juve, cioè Adinolfi. E tra l'altro potrà giocare sempre lui, perché si sa che Chiesa resterà comunque sempre, aperto. Sempre. Ciao, un abbraccio. Dove è andato il traffico? Ciao. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta 1 Nessuno 100 Milan. Leggimi qualche messaggio. Leggimi qualche messaggio arrabbiato di qualcuno che ce l'ha con noi, di qualcuno. Ah no, leggiamo, non so, qualcuno contro Adinolfi adesso, perché è proprio contro noi. Vabbè. No, devo dire che parlando di tutte le persone in difficoltà non sono arrivati i messaggi critici. Vuoi un messaggio? Scrivete un messaggio contro Manera, dai, qualsiasi, poi dopo. Ma quelli arrivano sempre, basta recuperarne qualcuno nella chat. Adesso aspetta. Facebook. Fai sentire un po' la canzone che intanto lo recupero. Non ne trovo, sono i soliti quelli di prima. Ma adesso io voglio riallacciare il filo con il nostro amico Stefano Geller. Stefano, buongiorno, come stai? Buongiorno. Stefano Geller, ciao, ben ritrovato. In vacanza a Bibione? No, basta, è finita la vacanza a Bibione. Quanto è? Una settimana siamo riusciti a mandarti, no? Esatto, una settimana e ho trovato bellissimo tempo. Bello. L'ultima settimana bella. Stefano, allora sapete che è diventato nostro amico, è da sempre in carrozzina. Noi l'abbiamo conosciuto, scusa se lo ricordo, ma perché magari la gente non ti... L'abbiamo conosciuto quando lui aveva manifestato un po' la voglia di dire: non ce la faccio più, tanto che quasi quasi vado in Svizzera, mi faccio accompagnare in queste cliniche dove si può fare il suicidio assistito. E invece nell'ultimo anno, insomma, Stefano, anche seguendoti su Facebook, abbiamo visto che c'è stato un po' un ritorno alla voglia di fare delle cose, alla voglia di vivere, nonostante la difficoltà fisica in cui sei. Ultimamente però leggo che sei un po' abbattuto. Ricordiamo che hai perso tua mamma quest'estate. Esatto, sì. Come va? Che succede? Sarà un po' il tempo, un po' il cambio stagione, ecco, diciamo che riaffiorano un po' malinconie, un po' di brutti pensieri, però continuiamo, dai, a andare avanti. Io leggo spesso quello che scrivi. Scrive dei pensieri bellissimi, Stefano Ghelli. Adesso non oso dire poesie, non lo so, ma dei pensieri profondi su Facebook. Lo seguite così, La vita di Stefano Geller. Ma se io ti chiedessi di leggerne uno breve, se ce l'hai sotto mano, lo fai per noi? Sì, dai, quello di questa mattina. Oh, che bello, vai. Però che non è... Alla fine ho scoperto che è di un poeta spagnolo. Ok. E dice così: la vita continua, dicono, ma non sempre è vero. A volte la vita non continua, a volte passano solo i giorni. Ecco, questo è... È per questo che io, vedendo questi messaggi, dico... Accidenti, dobbiamo risentirlo, no? Per fargli sentire un po' di calore. Stefano, posso lanciarti una piccola idea? Adesso non so come, quando e in che modo, vista la situazione del virus, però cosa ne pensi se in futuro organizzassimo una serata dal vivo dove facciamo uno spettacolo e tu leggi alcune delle tue cose? Secondo me potrebbe essere un modo... anche per te è nuovo di rapportarti con le persone, magari di darti un po' di carica, di spinta in più. Beh, facciamo certo una cosa insieme. Volentieri, Leonardo. Sarebbe bellissimo. Io vengo, ma non per sto giù, ma vengo perché questa, una serata del genere non me la vorrei perdere. Anzi, facciamo l'appello, Leonardo, visto che tu conosci, certo, adesso entriamo in una fase un po' delicata. Prima abbiamo ironizzato anche sulle serate di spettacoli. Vabbè, che però, intanto, però pensiamoci per la primavera, fino a 200 persone si possono comunque far entrare in un teatro, compreso, vabbè, il personale. Stefano dove abita, che non ricordo? A Bassano del Grappa. Stupendo. E allora lì ci sono anche tanti teatri, anche di piccole dimensioni in zona. Una città eccezionale, anche Bassano del Grappa, molto vitale dal punto di vista teatrale, culturale. Sì, quindi sì, facciamo un appello agli organizzatori del luogo, anch'io ne conosco alcuni, e cercheremo di organizzarci per mettere in piedi questa cosa, se ti fa piacere. Certo, sicuramente. Potrebbe essere una bella sfida, la prossima sfida che lanciamo. Dopo le vacanze a Bibione cerchiamo di organizzare una serata a Bassano del Grappa. Tra l'altro c'è una stupenda libreria a Bassano del Grappa, forse la libreria Roberti, che è forse la migliore d'Italia. Io quando presento i libri vado sempre perché è meravigliosa. A Palazzo Roberti, portata avanti da tre sorelle molto molto combattive. E, dai Leonardo, che dici? È nata così davvero in diretta, ma potrebbe essere una bella cosa, una serata con Stefano Geller sul palco e Leonardo Manera. Intanto magari, se hai voglia, prova a pensare a una serie di cose che hai scritto che vorresti leggere, selezionandole, insomma. Ok, va bene. Vabbè. Mi raccomando, però, su lo so che è una banalità di su col morale, però che dovrei dirti altrimenti? Va bene, dai. Va bene? Mi raccomando, Stefano, ti sentiamo presto, adesso questa cosa la mettiamo in piedi. E poi, Leonardo, se qualche, non so, organizzatore della zona Bassano del Grappa vuole mettere in piedi, insomma, qualche... Sì, Vicenza, Padova, Bassano, insomma, siamo lì in zona, ce ne sono tantissimi di organizzatori. Da quelle parti, quindi magari qualcuno ci ascolta ed è interessato a... Io vengo gratuitamente e... Anch'io, però facciamo questa cosa e la facciamo. Bello, bello. Allora dai, andiamo a sentire la borsa e poi state con noi, perché ci sono anche tante altre cose ancora fino alle 11 con uno nessuno 100.000. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento 1, nessuno, 100 Milan. Mm. Leonardo. Oh, ma dobbiamo farla questa serata. Guarda che stanno arrivando tantissimi messaggi. Bravi, veniamo sicuramente. Daniela da Monfalcone, Andrea da Venezia. Ma io dobbiamo... tornerei volentieri a Bassano per cancellare un brutto ricordo, ecco, che mi è rimasto di un posto dove ho lavorato tanti anni fa. Il mio Zotis si chiamava. Magari c'è ancora, salutiamo. No, non c'è più, sono sicuro, perché allora al piano di sopra c'era una pizzeria, al piano di sotto c'era un night dove sì, si andava a fare spettacolo. E tu? Esatto. E io quella sera pensavo di aver fatto colpo con una ragazza che invece poi mi dissero essere un entrepreneur del posto che lo faceva per lavoro. Quindi mi è rimasta quell'amarezza di una conquista mancata. Dobbiamo cancellare questa amarezza con una serata a Bassano del Grappa. Io dico Bassano del Grappa perché è una città meravigliosa con tanti teatri, e quindi magari è facile organizzarla lì. Oh, fatevi vivi, a chi si deve fare un appello? Organizzatori di serate? Sì, qualche organizzatore, qualche agente se ha voglia di occuparsi di questa cosa. Veniamo. Manera sul palco, Stefano Geller sul palco, io faccio il portaborse, veniamo, vi facciamo un po' di pubblicità. Tu vieni a mangiare. Sì, magari un bicchiere di vino lo si strappa. Tutto a gratis, tutto per sostenere Stefano. Dove c'è da mangiare viene Alessandro Milan. Ma pago, non è un problema. Forchetta, detto il forchetta. ma io pago, ma che problema c'è? The fork. Ok, vabbè. Alessandro, okay. Forchetta Milan. Vabbè. Allora, signori, adesso c'è un ascoltatore che ci ha mandato una mail accuratissima. Dopo che ci aveva mandato un ascoltatore, ti ricordi, da Bogotà, dicendo che non riusciva a rientrare dalla Colombia perché in questa lista di paesi che sono un po' preclusi all'Italia. Ci ha scritto un altro ascoltatore che ci ascolta dall'estero e io voglio andare sempre più lontano. Ci ascolta indovina da dove, caro Leonardo? Da dove? Dall'Iran, secondo me. Dall'Iran, no, dalla Nuova Zelanda. Yuri Carminati, Nuova Zelanda. Che ore sono intanto, caro Yuri? Buongiorno, sono le 9:30 di sera. Urlo, come quelli che pensano che bisogna urlare perché così ti si sente dall'altra parte del mondo. Sono le 21:30. Cosa ci fai in Nuova Zelanda, Yuri? Io sono quello degli cervelli in fuga. Ecco. Faccio parte dei cervelli in fuga, ma il cervello l'ho lasciato in Italia. Benissimo. E quindi cosa fai senza cervello? No, cosa faccio? Abbiamo cominciato a fare l'aiuto cuoco e sono finito a fare il camionista. Stupendo. Camionista in Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda, sì, mi hanno dato delle opportunità e ho cominciato a fare il manovale in una ditta e poi il mio capo mi ha chiesto: ti piacerebbe fare il camionista? E ho detto sì, va bene. E ho preso le varie patenti. E adesso c'è il mio camion con una gru attaccata e consegniamo muri in cartongesso nei vari cantieri. Bellissimo. E vivi ad Auckland. Come sono i guidatori in Nuova Zelanda? Si guidano meglio o peggio? Che a sinistra. Intanto a sinistra. No, si guida molto meglio. Come si guida dall'altra parte. Anglosassone. Si guida molto meglio. Sì. Ma si guida molto meglio. Ma perché? Meglio. Perché sono più ligi alle regole i neozelandesi? Più ligi alle regole, più rilassati. In generale più rilassati. Non c'è la vita stressante. Tu hai lasciato l'Italia e che zona dell'Italia? Ho lasciato Bottanuco in provincia di Bergamo, un paesino. Avrei voluto dire provincia di Bergamo dalla pronuncia, effettivamente, ma non mi volevo lanciare. quando sei andato via? Io sono partito nel 2014 verso in direzione Australia. Poi diciamo che lì non è andata proprio bene, allora abbiamo detto: proviamo la Nuova Zelanda e vediamo ancora come più va. Lontano. Poi dopo è finita. Dopo la Nuova Zelanda è finita. Dopo c'è il burrone, c'è la fine del mondo. Sì, con la terra piatta, poi dopo cadi sotto. C'è qualche isoletta, forse così sperduta. Sì, Tonga, Samoa, tutti i miei colleghi che vengono a quelle isole Cook. Comunque, Yuri Carminati ha scritto una mail dicendo: anch'io sono in una situazione simile, nel senso che dalla Nuova Zelanda si può tornare in Italia, sì o no, in questo momento? Sì, io potrei tornare in Italia, anche ci sono 2 o 3 voli a settimana, però io, visto che ho deciso di vivere qua, ma sono in permesso di soggiorno almeno per un altro anno, non potrei più rientrare. Perché? Perché hanno chiuso i confini. possono solo rientrare quelli che hanno il passaporto neozelandese o sono, hanno un visto permanente. Cioè, no, facci capire, cioè, tu hai detto tu potresti rientrare, nel senso che ci sono i voli, ma in che condizione, sì, giuridica, ce la rispieghi, sei per cui non puoi rientrare? Io sono un, sono come un extracomunitario praticamente, che quegli extracomunitari che vengono in Italia col permesso di soggiorno. Ho un permesso di soggiorno di 2 anni che dopo 2 anni mi darà la possibilità di prendere un visto permanente, okay, in Nuova Zelanda. E una volta, adesso come adesso, visto che sono in visto permanente, non potrei più rientrare in Nuova Zelanda. Ah, ho capito. Quindi posso tornare in Italia, ma non rientrare qui. Tu puoi tornare in Italia, ma non puoi rientrare in Nuova Zelanda. Sì. C'è da dire che... Com'è, c'è... la situazione del virus in Nuova Zelanda? Giusto oggi hanno detto che ci sarà liberi tutti, da mercoledì notte a mezzanotte ci sarà nuovamente liberi tutti. Ma come liberi, quindi... tutti? Guarda, noi da mercoledì, scusa l'invidia un po', noi da mercoledì invece andremo al, no, non chiusi tutti, ma probabilmente a più restrizioni, invece in Nuova Zelanda ce l'avete fatta. Ma ce l'avevamo già fatta. Poi è successo qualcosa nei vari, qua ci sono degli hotel dove la gente che rientra dall'estero viene messa in quarantena negli hotel, ed è successo qualcosa lì in questi hotel, il virus è uscito dall'hotel e quindi noi eravamo già liberi mesi e mesi fa, ma poi siamo dovuti ritornare nuovamente in un lockdown medio. E adesso ci stiamo rilassando nuovamente, e l'altro giorno siamo andati al ristorante tranquillamente. C'è solo l'obbligo delle maschere e delle mascherine nei mezzi pubblici, ecco. Sì, devo dire che Bon Yuri è in una situazione un po' diversa da quel nostro amico, sì, dalla Colombia, perché lui invece potrebbe tornare in Italia, ma poi non può rientrare, non potrebbe. E siccome dice vorrei riabbracciare i miei genitori, tra l'altro, scusa, della Bergamasca, quindi hai vissuto, sebbene a migliaia di chilometri, tutto il marzo, allora, quello che è successo. Ecco. Diciamo che si riusciva a dormire la notte, ma la mattina c'era sempre la paura a accendere il telefono. È stato un mese e mezzo abbastanza pesante. Ecco. Sì, di avere delle notizie davvero sì, terribili. Yuri, senti, dici una cosa bella della Nuova Zelanda, la cosa che ti piace di una più della Nuova Zelanda. L'isola del sud. L'isola del sud, la natura. Qui di storico c'è poca roba, ma la natura è una cosa fantastica. Ci sono i canguri anche in Nuova Zelanda? ci sono i canguri per le strade? I kiwi, giustamente è l'animale, l'animale nazionale. È un animaletto, un uccello senza ali. Sì, i kiwi. Un uccello senza ali. Leonardo pensava subito al frutto, i kiwi. No, i kiwi sono gli uccelli. È l'uccello nazionale della... È l'uccello nazionale. Ma non vola, però. Sì, non vola. No, non vola perché la Nuova Zelanda non ha i predatori. E quindi l'uccello non aveva bisogno di volare. Poi sono arrivati invece i Yuri Carminati, il cacciatore, che ha abbattuto 100 kiwi. No, sta scherzando? No, non lo so. No, non ho ancora abbattuto niente col camion. No, si va piano qua. Va bene. Yuri, in bocca al lupo, ma tu come ci ascolti ogni tanto, in podcast, in diretta? Allora, come fai? Io comincio alle 5:30 di mattina con tutti i convocati. Poi si passa a voi. Aspetta, che ci sono i fusi orari. Aspetta, 5 no, e mezzo di mattina. Podcast. Ah, tutti in podcast. Ok, tutti convocati. Poi Nicoletti. Poi passiamo. Poi voi. Nicoletti. E poi pomeriggio per rilassarmi un po' sotto la zanzara. Stupendo. Ti tira sul morale. Quindi se parti con tutti convocati, tanto viene tanto, sei un tifoso. Di che squadra? Attento, Yuri, attento. Abbiamo vinto 3-0 ieri, non è stato confermato il tavolino 3-0 o no? Ah no, aspetta, io grande ho detto pensavo il Milan, porca miseria, no. Anche il Milan ha vinto 3-0, ma noi siamo scesi in campo e abbiamo fatto 3 gol. Voi effettivamente avete comprato all'ultimo tavolino che ha incornato all'incrocio 2 volte. Mi ero organizzato poi tutta la mattinata con i miei colleghi, ho detto lasciatemi tranquillo per 90 minuti, è stato tutto. Vabbè. È uno Juventus. tranquillo, ti vogliamo bene lo stesso, caro Giulio. Ti vogliamo bene lo stesso. In bocca al lupo e un abbraccio alla Nuova Zelanda. Che bello, caro Leonardo. Perché non urli? Non ti sentono se no in Nuova Zelanda. Stavo pensando che rispetto alla guida in Nuova Zelanda è vero quello che diceva l'ascoltatore, perché una volta mi ha fermato un vigile e mi ha detto bravo, mi ha fermato perché stavo guidando bene, mi ha detto lei guida come un neozelandese. Non è vera questa, non è vero. Ma tu come faresti mai ad andare in Nuova Zelanda col tuo terrore per gli aerei? È lontano. Quante ore sono? 24 ore di volo più o meno, con lo scalo a Singapore. Diretto non c'è, saranno 9 io, ore, 10 a Singapore e altre 10, sì, non so. Sì, io farei dei molti scali, tutti i voli di un'ora. Tutti di un'ora. Milano-Roma. Roma e via. Roma-Budapest, poi faccio Budapest-Mosca. Mosca, poi non so cosa si può fare, vabbè. Ma tutti i voli brevi di un'ora. Tutti di un'ora. In modo che non mi venga la tensione di stare tante ore. Decollo, atterraggio, sono le parti più a rischio. Sì, però dura un'ora, quindi mentalmente è una cosa che mi rilassa di più che stare 24 ore, 12 in aereo. Arrivi per Natale, insomma. Come quando da Cagliari vai a Civitavecchia, è anche meno di un'ora, lì sono 40 minuti. Quindi farei tutti i voli così, di 40 minuti. Vabbè, traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Osserviamo la specie del ristoratore nel suo habitat digitale, il locale senza pareti. Notiamo come serve i suoi clienti ovunque si trovino. Grazie a Vodafone Business, infatti, ha sviluppato nuove abitudini, come la gestione digitale delle ordinazioni, sia al tavolo, sia per il delivery. Il tuo lavoro digitale, le nostre soluzioni per arrivare ovunque. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vai su voda.it/localedigitale. Ready? Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signori, 10 e 50 minuti, siamo in chiusura per questi 4 minuti e 30. Arriva il periodo delle tasse, è inevitabile, è ovvio, è ineludibile. Arriva il periodo in cui il ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate, dirigente. Sottolinei, buongiorno, questo termine, questa qualifica, dirigente. Ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Gode, ha detto bene, caro Milan, siamo in trepidante attesa anche della riforma fiscale, più volte annunciata. Il governo dice che si ispirerà al modello tedesco della maxi aliquota. A noi basta solo che la maxi aliquota corrisponda a dei maxi versamenti. Intanto però stanno partendo 8 milioni di cartelle esattoriali. Perché? Le cartelle esattoriali. Gli italiani non... Intanto continua la nostra caccia ai furbetti che vogliono evadere le tasse. Io per esempio la mattina mi siedo al bar in incognito, spesso travestito da Elvis per non darne l'occhio, e ascolto le conversazioni tra i tavoli. Se sento una parola sospetta tipo Kurmayer, avviso immediatamente i miei collaboratori, faccio scattare un controllo fiscale. Hai detto Courmayeur, controllo fiscale. Ma urigliare quello che dicono le persone al bar è solo uno dei tanti strumenti avanzati che abbiamo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Per esempio c'è sempre il grande classico, il redditometro, che come sapete ci permette di calcolare quanto guadagnate e in base a quello farvi pagare le tasse. Le tasse. Quindi vediamo subito un esempio concreto, cari contribuenti, per aiutarvi. Vediamo se anche voi siete tra quelli che non dichiarano proprio tutto. Per esempio, possedete un tappeto tappetino da bagno. E come no, certo, più di uno. Certo, tutti hanno un tappetino da bagno. Serve per non scivolare quando si esce dalla vasca o dalla doccia. Il vostro tappetino però è lungo 10 metri, così potete camminare dal bagno alla cucina in accappatoio, sgocciolando e saltellando qua e là senza paura di rompervi il femore cadendo. E siccome siete degli esosi, sperperatori, mani bucate, non vi accontentate di un tappetino da bagno più lungo del normale, avete un tappetino da bagno persiano, grande, pregiato con la trama fitta, 1 milione di nodi al metro quadro. I nodi, vi mettete lì la sera a spazzolare tutti i nodi con il vostro pettine da nodi a uno, perché tenete più al vostro tappetino da bagno persiano che a vostra moglie. Siete andati a prenderlo direttamente in Persia, anche se la Persia adesso si chiama Iran, la Persia è andata a Persa, ho fatto anche una battuta. E siccome non avete trovato un volo diretto Malpensa-Persia, avete noleggiato un jet privato e avete sperato che il pilota sapesse dove andare. A quel punto, avendo a disposizione un intero aereo, tanto valeva prendere qualcos'altro una volta arrivati in Persia. E allora avete comprato anche uno zerbino persiano, che è uguale a uno zerbino normale, solo che la scritta benvenuti in oro persiano. Lo zerbino. Perché? Il puntino sulla I di benvenuti è un diamante purissimo da 50 carati. Avete dovuto inchiodarlo al pianerottolo, il vostro zerbino persiano, dopo che per la terza volta i ladri hanno cercato di portarvi via quello, lasciando dentro tutto il resto. Quindi, riassumendo, se siete quelli che non vogliono bagnare per terra dopo il bagno e la doccia, vuol dire che il vostro reddito è di 3 milioni di euro. E su quelli tasse da pagare, tasse in continuazione, tasse. Senta, ma controlli, dirigente Crosta, gli spettacoli di Manera, che ne fa tanti, un controllino, ne aveva tanti. Maniera è continuamente sottoposto alla nostra attenzione e alcune di quelle 8 milioni di cartelle esattoriali sono state spedite anche a lui. I prossimi giorni riceverà una bella sorpresa. Insieme all'aumento di luce e gas, questi giorni riceverete anche le nostre cartelle esattoriali. Felici? Felicissimi, caro ragioniere Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Con questa felicità ci risentiamo domattina. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.